Centesima unità. In autostrada. Dialogo. Una sosta all'autogrill. Tra 2 chilometri c'è una stazione di servizio. Che ne dici? Ci fermiamo? Sì, è una buona idea. Vorrei bere qualcosa di fresco e fare 2 passi. Anch'io ho bisogno di sgranchirmi le gambe. Mi sento un po' stanco. Con questo caldo? Se poi uno viaggia a questa velocità, è chiaro che si stanca anche di più. Oh, eccoci qua. Prima che si formi la coda, credo che ci convenga fare anche benzina. Quanta? Il pieno. L'olio e l'acqua sono a posto? Credo di sì. Comunque sarebbe meglio che li controllasse. Non si sa mai. L'olio è al minimo. Ne manca almeno 1 chilo. Com'è possibile? Ci deve essere qualcosa che non va. L'ho fatto cambiare prima di partire. Non so quanti chilometri abbia fatto, ma... Ne ho fatti appena 400. Allora forse il filtro è sporco. Se avesse tempo si potrebbe guardare. Ma a quest'ora c'è un meccanico o comunque qualcuno che possa farlo? Sì, l'officina è sempre aperta. Bene. Mi controlli anche la pressione delle gomme, per favore. Mi pare che sia un po' alta. Porti la macchina dall'altra parte, vicino alla pompa del gasolio. Subito. Ecco, senta, quanto ci vorrà a sostituire il filtro? Una 20 minuti. E se intanto ci mangiassimo un panino? Buona idea. Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Tra 2 chilometri c'è una stazione di servizio. Che ne dici? Ci fermiamo? Sì, è una buona idea. Vorrei bere qualcosa di fresco e fare 2 passi. Anch'io ho bisogno di sgranchirmi le gambe. Mi sento un po' stanco. Con questo caldo. Se poi uno viaggia a questa velocità, è chiaro che si stanca anche di più. Oh, eccoci qua. Prima che si formi la coda, credo che ci convenga fare anche benzina. Quanta? Il pieno. L'olio e l'acqua sono a posto? Credo di sì. Comunque sarebbe meglio che li controllasse. Non si sa mai. L'olio è al minimo. Ne manca almeno 1 chilo. Com'è possibile? Ci deve essere qualcosa che non va. L'ho fatto cambiare prima di partire. Non so quanti chilometri abbia fatto, ma... Ne ho fatti appena 400. Allora forse il filtro è sporco. Se avesse tempo si potrebbe guardare. Ma a quest'ora c'è un meccanico o comunque qualcuno che possa farlo? Sì, l'officina è sempre aperta. Bene. Mi controlli anche la pressione delle gomme, per favore. Mi pare che sia un po' alta. Porti la macchina dall'altra parte, vicino alla pompa del gasolio. Subito. Ecco, senta, quanto ci vorrà a sostituire il filtro? 20 minuti. E se intanto ci mangiassimo un panino? Buona idea. Vocaboli pagina 523. Soccorso autostradale. Area di servizio. Distributore automatico di benzina. Area di sosta. Altri vocaboli di pagina 523. Corsia di emergenza. Svincolo. Corsia di sorpasso. Casello. Vocaboli pagina 524. Piangere. Gridare. Sorridere. Ridere. 20ª unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 25. Acquisti al Pavesi. Ah, queste soste al Pavesi sono insopportabili. Ti pare giusto che per uscire di qui si debba passare per forza per il market? Per un caffè abbiamo fatto una coda di 5 minuti e adesso tutto questo giro. Che fretta c'è, tanto dobbiamo aspettare che sia pronta la macchina. Abbiamo ancora una decina di minuti. E li vorresti passare qui, in mezzo a tutta questa gente? No, di certo, ma dato che ci siamo, non mi dispiacerebbe guardare un po' in giro. Ma non vedi che non c'è niente di bello? Guarda per esempio quei piatti di ceramica e quelle statuette. Secondo me non li compra nessuno. Non ti piacciono neppure queste cravatte? Credi davvero che qualcuno abbia il coraggio di mettersele? A me non sembrano così brutte. E poi per 25.000 lire non trovi niente di meglio. Appunto, il prezzo fa la qualità. Vediamo che c'è di qua. Ombrelli, impermeabili, macchine fotografiche, videocassette, dischi, profumi. Ah, ecco, vorrei vedere se c'è Roma di Laura Biagiotti. Roma? Che cos'è? Il profumo che metti sempre? Sì, sta per finire e vorrei ricomprarlo. Va bene. Ricordati di prendere anche i Kleenex da tenere in macchina. Intanto io vado avanti per cercare i giornali e ti aspetto alla cassa. D'accordo, faccio in un minuto. Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 539. Pronto? Sei tu, Francesca? Sì, sono io. Chi parla? Sono Gianna. Ti disturbo? State cenando? Ma no, figurati. Cosa c'è? Mi sembri preoccupata. Sì, sto aspettando Marco. Sai, doveva tornare da Roma oggi. Mi aveva detto che partiva stamattina presto, ma non è ancora arrivato. Di solito, se c'è un ritardo, mi avvisa, mi telefona. Viaggiava in treno o in macchina? In macchina. È per quello che sono così preoccupata. Senti, sta calma. Può darsi che abbia tentato di telefonarti nel pomeriggio, quando tu eri fuori. No, no, sono restata a casa tutto il giorno. Ho proprio paura che sia successo un incidente. Ah, hanno suonato alla porta in questo momento. È Marco, meno male. Ti richiamo più tardi. Ciao!